ad alta voce. Daria De Florian legge Il diario di Anna Frank. Mercoledì 1 luglio 1942. Cara Kitty, in questo periodo non ho proprio trovato il tempo per scriverti. Giovedì ero per tutto il pomeriggio da amici, venerdì avevamo ospiti e così via fino a oggi. Questa settimana io e Hello ci siamo conosciuti bene. Lui mi ha parlato molto di sé. Viene da Gelsenkirchen ed è qui in Olanda senza i genitori, dai nonni. I genitori sono in Belgio e anche lui però può andarci senza difficoltà. Hello aveva una ragazza, certa Ursula. La conosco bene, è tremendamente carina e noiosa. Da quando conosce me, si è accorto che in sua compagnia si addormenta. Allora sono una specie di sostanza svegliante. Non si sa mai per cosa si può essere utili nella vita. Sabato Jacques ha dormito da me. Domenica pomeriggio è stata da Hanely e mi sono annoiata a morte. Di sera Hello sarebbe dovuto venire da me, ma verso le 6 mi ha telefonato. Ho risposto io e lui ha detto: «Qui parla Helmut Silbelberg. Potrei parlare con Anna, per favore?» «Sì, ciao, sono io.» «Ciao, Anne, come va?» «Bene, grazie. Volevo avvertirti che mi dispiace, ma stasera non posso venire. Però volevo parlarti lo stesso un momento. Va bene se vengo da te tra 10 minuti?» «Sì, va bene. Ciao. Ciao, a presto.» Riaggancio, mi cambio in fretta e mi sistemo un po' i capelli, poi mi affaccio alla finestra piena di impazienza. Finalmente arriva. Miracolo che non mi sono precipitata giù per le scale, ma ho aspettato pazientemente che suonasse il campanello. Poi sono scesa e lui è entrato senza tanti complimenti. «Sai, Anne, mia nonna trova che sei troppo giovane per continuare a uscire insieme. Dice che dovrei tornare con la Löwenbach, ma come forse saprai non mi vedo più con Ursula.» «Perché? Avete litigato?» «No, anzi, ho detto a Ursula che tutto sommato non siamo fatti l'uno per l'altra e che quindi non dobbiamo più uscire insieme, ma che lei sarà sempre la benvenuta in casa nostra, come io spero di esserlo in casa sua. Pensavo infatti che se la intendesse con un altro, per questo ho voluto tagliare. Ma non era affatto vero. Adesso mio zio dice che le devo chiedere scusa. Io però ovviamente non voglio. Così ho troncato. Ma non è stato che uno dei tanti motivi. Mia nonna poi vuole che io vada da Ursula e non venga da te. Ma io non sono d'accordo e non intendo obbedire. Le persone anziane spesso hanno idee molto antiquate che non posso accettare. Certo, io ho bisogno dei miei nonni, però anche loro hanno bisogno di me. Adesso sono libero di mercoledì sera. I nonni pensano che io frequenti un corso per intagliatori di legno, mentre in realtà faccio parte di uno di quei piccoli circoli del movimento sionista. Non posso dirglielo, perché loro sono molto contrari al sionismo. Neanch'io sono particolarmente fanatico, ma mi interessa. Ultimamente però al circolo c'è una tale confusione che ho intenzione di andarmene. Mercoledì ci vado per l'ultima volta. Poi sarò libero mercoledì sera, sabato pomeriggio, sabato sera e domenica pomeriggio. E forse anche più spesso. Ma se i tuoi nonni non vogliono, non puoi farlo di nascosto da loro. All'amore non si comanda. Eravamo davanti alla libreria Blankevort, dove c'erano Peter Schiff con altri due ragazzi. Ha ripreso a salutarmi dopo molto tempo. Mi ha fatto molto piacere. Lunedì sera, Hello è venuto da noi per conoscere papà e mamma. Ho offerto una torta e caramelle, tè e biscotti. C'era di tutto. Ma né io né Hello avevamo voglia di starcene seduti uno di fianco all'altra, così ce ne siamo andati a passeggiare e sono stata riaccompagnata a casa appena alle 8:10. Papà era molto arrabbiato. Diceva che non vuole che io torni a casa tardi e ho dovuto promettergli che in futuro rientrerò già alle 8:10. Sabato prossimo sono invitata da Hello. Mamma mi chiede sempre chi sposerò. Non penso che sospetti che sarà Peter, perché assicuro sempre loro che non è lui, senza arrossire minimamente. Voglio bene a Peter, come non ho mai voluto bene a nessun altro, e sono convinta che lui se la spassa con tutte quelle ragazze solo per nascondere i suoi sentimenti veri. Forse adesso anche lui penserà che io e Elo ci amiamo, però non è vero. È solo un amico, o, per dirla con le parole della mamma, un cavalier servente. Tua Anne. Domenica 5 luglio 1942. Carissima Kitty, venerdì al Teatro Ebraico la lettura delle pagelle è andata bene. La mia non è affatto brutta. Ho solo un'insufficienza, un 5 in algebra. E poi tutti 7, 2, 8 e 2, 6. I miei erano contenti. Ma in fatto di voti i miei genitori sono molto diversi dagli altri. Non gliene importa niente se la pagella è bella o brutta. Desiderano solo che io stia bene, non sia troppo sfacciata e mi diverta. Quando queste tre cose sono a posto, anche il resto non può andare male. Io sono al contrario. Non voglio andare male. Sono stata accettata al liceo con riserva, perché in verità dovrei frequentare ancora il 7° anno della scuola Montessori, ma quando tutti i bambini ebrei hanno dovuto iscriversi in scuole ebraiche, dopo tanti tira e molla, il signor Helte si è deciso di accettare egualmente me e Lise Goslar. Anche Lisa è passata, ma deve fare un grosso esame di riparazione di geometria. In questo periodo papà è spesso a casa. In ufficio non lo vogliono più. Deve essere triste sentirsi improvvisamente inutile. Il signor Kleiman ha preso in mano la Opecta e il signor Kugler la Gies & Co., che produce surrogati di spezie, fondata appena nel 1941. Un paio di giorni fa, mentre passeggiavamo insieme attorno alla nostra piazzetta, papà si è messo a parlare di entrare in clandestinità. Ha detto che sarà molto difficile vivere completamente separati dal mondo. Gli ho chiesto perché ci pensa già adesso. «Eh sì, Anne», ha risposto lui. «Lo sai che già da un anno stiamo portando vestiti, cibo e mobili in casa di altri? Non vogliamo che i nostri averi finiscano in mano ai tedeschi e ovviamente non vogliamo essere presi. Per questo ce ne andremo spontaneamente e non aspetteremo che vengano a prenderci». «Ma quando, papà?» Il modo serio in cui me l'aveva detto mi spaventava. «Non preoccuparti. Ci penseremo noi. Goditi la tua vita spensierata finché puoi. Tutto qui. Spero tanto che questa grigia prospettiva sia ancora molto lontana. Suonano alla porta. Arriva Hello. Chiudo. Tua Anne». Mercoledì 8 luglio 1942. Cara Kitty, da domenica mattina a oggi sembrano essere passati anni. Sono successe talmente tante cose che mi pare che il mondo d'un tratto si sia capovolto. Però, Kitty, come vedi, sono ancora viva. Questa è la cosa più importante, secondo papà. Sì, in effetti sono viva, ma non mi chiedere dove e come. Temo che oggi non capirai niente di quello che ti dico. Così comincerò col raccontarti che cos'è successo domenica pomeriggio. Alle 3, Hello se n'era appena andato per tornare più tardi. Qualcuno ha suonato alla porta. Io non avevo sentito, perché leggevo sulla veranda prendendo pigramente il sole. Poco dopo Margot si affaccia alla porta della cucina tutta agitata. È arrivata una chiamata per papà da parte delle SS, mi dice a bassa voce. Mamma è già andata dal signor Van Dan. Van Dan è un buon amico, collaboratore nella ditta di papà. Mi sono spaventata a morte. Una chiamata. Tutti sanno che cosa vuol dire. Ho subito immaginato campi di concentramento e celle solitarie. E noi dovremmo lasciarci andare papà. Naturalmente non parte, mi ha spiegato Margot mentre aspettavamo la mamma. La mamma è andata da Vandana per chiedergli se domani possiamo trasferirci nel nostro nascondiglio. Vandana verrà a nascondersi con noi. Saremo in 7. Silenzio. Non riuscivamo più a parlare. Il pensiero di papà, che senza sospettare niente era andato a trovare i vecchi dell'ospizio ebraico, l'attesa della mamma, il caldo, la tensione, tutto ci faceva tacere. D'un tratto suonano di nuovo alla porta. «Sarà Hello», dico io. «Non aprire», mi raccomanda Margot. Ma non era necessario, perché di sotto si sentivano la mamma e il signor Vandana che parlavano con Hello. Poi sono entrati e hanno chiuso la porta. Ogni volta che suonavano, adesso Margot e io dovevamo scendere in punta di piedi per vedere se era papà. Nessun altro poteva entrare. Margot e io fummo mandate fuori dalla stanza. Vandana voleva parlare da solo con la mamma. Mentre eravamo nella nostra stanza, Margot mi raccontò che la chiamata non riguardava papà, ma lei. Mi spaventai di nuovo e scoppiai a piangere. Margot ha 16 anni. Allora vogliono far partire da solo ragazze così giovani? Ma per fortuna lei non andrà, l'ha detto anche la mamma. E sicuramente anche papà pensava a questo quando mi diceva che ci saremmo nascosti. Nasconderci. Ma dove ci nasconderemo? In città? In campagna? In una casa? In una capanna? Quando? Come? Dove? Erano tutte le domande che non potevo fare, ma che continuavano a frullarmi per la testa. Margot e io cominciamo a sistemare il minimo indispensabile in una cartella. La prima cosa che ci misi fu questo quaderno, poi arricciacapelli, fazzoletti, libri di scuola, pettine, vecchie lettere. Pensavo che ci dovevamo nascondere e ficcavo nella borsa le cose più assurde, ma non mi dispiace, tengo più ai ricordi che ai vestiti io. Alle 5 finalmente arrivò papà. Telefonammo al signor Kleiman e gli domandammo se poteva venire quella sera stessa. Vandana andò a chiamare Miep. Miep arrivò, mise in una borsa un po' di scarpe, vestiti, giacche, biancheria e calze e promise di tornare in serata. Poi nella nostra casa ci fu silenzio. Nessuno di noi quattro aveva voglia di mangiare. Faceva ancora caldo e tutto sembrava molto strano. Avevamo affittato la grande stanza dell'ultimo piano a un certo signor Goldschmidt, un uomo divorziato sulla trentina, che quella sera sembrava non avere niente da fare. Così rimase con noi fin verso le 10. Non riuscivamo proprio a togliercelo dai piedi. Alle 11 arrivarono Miep e Jan Gies. Miep lavora in ufficio da papà dal 1933 ed è diventata una nostra cara amica proprio come il suo maritino novello, Jan. Ancora una volta scarpe, calze, libri e biancheria scomparvero nella borsa di Miep e nelle profonde tasche di Jan. Alle 11:30 se n'erano andati anche loro. Io ero stanca morta. E anche se sapevo che sarebbe stata l'ultima notte nel mio letto, dormii profondamente e fui svegliata dalla mamma appena alle 5:30 del mattino. Per fortuna non faceva così caldo come domenica. Per tutto il giorno continuò a cadere una pioggia calda. Ci imbacuccammo tutti come se dovessimo andare a dormire in una ghiacciaia. Questo solo per portarci via ancora un po' di roba. Nessun ebreo, nelle nostre condizioni, avrebbe osato uscire di casa con una valigia piena di vestiti. Io avevo 2 camicie, 3 paia di mutande, un vestito con sopra una gonna, cappotto, soprabito, 2 paia di calze, scarpe pesanti, berretto, sciarpa e un sacco di altra roba. Soffocavo ancora prima di uscire, ma di questo non se ne preoccupava nessuno. Margot si riempì la cartella di libri, prese la bicicletta e partì con Miep per una destinazione a me sconosciuta. Io infatti non sapevo ancora dove era il luogo misterioso in cui eravamo diretti. Alle 7:30 chiudemmo la porta di casa. L'unica a cui avevo dovuto dire addio era Morty, la mia gattina, che sarà accolta dai vicini, come era scritto in una letterina indirizzata al signor Goldschmidt. I letti disfatti, i piatti della colazione sul tavolo, in cucina 0,5 chilo di carne per il gatto. Tutto dava l'impressione che fossimo partiti a rotta di collo. ma delle impressioni non ce ne importava niente. Volevamo andarcene, arrivare sani e salvi, nient'altro. Continuo domani. Tua Anne. Giovedì 9 luglio 1942, Carchitti. Così ci incamminammo sotto il diluvio. Papà, mamma e io, ognuno con la sua cartella o borsa della spesa piena degli oggetti più svariati. Gli operai che andavano a lavorare di mattina presto ci guardavano pieni di compassione. Dalle facce si capiva che erano dispiaciuti di non poterci offrire nessun mezzo di trasporto. L'appariscente stella gialla parlava da sé. Appena per strada papà e mamma mi raccontarono a pezzetti tutto il piano. Già da mesi stavano portando via da casa tutto quello che potevano e il 16 di luglio saremmo andati a nasconderci. Per colpa della chiamata la data era stata anticipata di 10 giorni. Ora avremmo dovuto accontentarci di un appartamento sistemato meno bene. Il nascondiglio è nel palazzo in cui c'è l'ufficio di papà. Per un esterno non è molto facile da capire, per questo cercherò di spiegarmi bene. Papà non ha mai avuto molto personale, il signor Kugler, Kleiman e Miep, poi ancora Bepp Vosquil, la stenodattilografa di 23 anni. Tutti sapevano che saremmo arrivati. Nel magazzino c'erano il signor Vosquil, padre di Bepp, e 2 operai a cui però non avevamo detto niente. L'edificio è fatto così. Al piano terra c'è un grande magazzino che viene usato come deposito. È diviso in zone diverse a seconda degli usi. Il macinatoio, dove vengono macinati i surrogati di cannella, chiodi di garofano e pepe, e la dispensa. Vicino alla porta del magazzino c'è una normale porta di casa, da cui, attraverso un'altra porta, si accede a una scala. In cima alla scala c'è una porta con i vetri un po' smerigliati, su cui un tempo c'era scritto a caratteri neri «Ufficio». Questo è l'ufficio principale, molto grande, molto chiaro, molto pieno. Di giorno ci lavorano Bepp, Miep e il signor Kleiman. Attraverso un bugigattolo con la cassaforte, il guardaroba e una grande dispensa, si accede a un ufficio più piccolo, piuttosto tetro e buio. Un tempo ci lavoravano il signor Kugler e il signor Van Dan, adesso solo il primo. Si può entrare nell'ufficio di Kugler anche dal corridoio, ma solo attraverso una porta a vetri che si apre dall'interno e non dall'esterno. Dalla stanza di Kugler si percorre il corridoio lungo e stretto, passando vicino alla nicchia per il carbone. Si sale di 4 gradini e si arriva nella stanza più sontuosa di tutta la casa, l'ufficio privato. Mobili scuri e distinti, linoleum e tappeti per terra, radio, bella lampada, tutto di gusto sopraffino. Vicino c'è una grande cucina spaziosa con lo scaldabagno e un fornello a gas a 2 fuochi. Più avanti ancora il gabinetto. Questo il primo piano. Dal corridoio parte una normale scala di legno. In cima c'è un pianerottolo che viene chiamato atrio. A destra e a sinistra dell'atrio ci sono porte. Quella di sinistra dà sulle stanze sul lato della strada adibite a magazzino, sui solai e sul tetto. Dall'altro lato di questi locali parte ancora una lunga scala ripidissima, la tipica rompigambe olandese, che scende fino alla 2ª porta d'accesso sulla strada. Sulla destra dell'atrio c'è il retrocasa, l'alloggio segreto. Nessuno sospetterebbe che dietro una semplice porta dipinta di grigio si nascondono tante stanze. Davanti alla porta c'è un gradino, poi si entra. Di fronte alla porta di casa c'è una scala ripida, a sinistra un breve corridoio e una stanzetta che sarà il salotto e la camera da letto della famiglia Frank. Di fianco c'è una stanza ancora più piccola, stanza da letto e lavoro delle 2 signorine Frank. A destra della scala una stanza senza finestre, con un lavandino e un gabinetto separato, con una porta che dà anche sulla stanza mia e di Margot. Salendo la scala e aprendo la porta in cima, si resta di stucco nel vedere che una casa così vecchia lungo il canale possa avere una stanza tanto grande e luminosa. In questa stanza c'è un fornello a gas, grazie al fatto che un tempo quello era il laboratorio di Kugler, e un lavandino. Sarà la cucina, quindi, ma anche la stanza dei coniugi Van Dan, salotto, stanza da pranzo e da lavoro comune. Una piccola stanzetta di passaggio sarà il regno di Peter Van Dan. Sopra, proprio come nella parte anteriore dell'edificio, ci sono il terrazzo e il solaio. Ecco, ti ho presentato tutto il nostro bel nascondiglio. Tua Anne. Venerdì 10 luglio 1942. Cara Kitty, probabilmente ti avrò annoiata con la dettagliata descrizione dell'appartamento, però mi sembra importante che tu sappia dove sono finita. Come sono arrivata qui, lo apprenderai dalle prossime lettere. Ma voglio riprendere da dove mi ero interrotta, perché sai, non avevo finito. Quando siamo arrivati al numero 263 della Prinzengracht, Miep ci ha portati in corridoio, su per la scala di legno, dritti su, fino nell'alloggio segreto. Ha chiuso la porta e siamo rimasti soli. Margot in bicicletta aveva fatto molto più in fretta e ci aspettava. Il nostro salotto e tutte le altre stanze erano incredibilmente piene di roba. Tutti gli scatoloni che nei mesi precedenti erano stati mandati in ufficio occupavano il pavimento e i letti. La stanzetta piccola era piena fino al soffitto di materassi, lenzuola, coperte e cuscini. Se quella sera volevamo dormire su letti decenti, ci dovevamo rimboccare subito le maniche. Mamma e Margot non riuscivano a muovere un dito. Giacevano sui materassi, erano stanche, fiacche e non so cos'altro. Ma papà e io, i due uomini di fatica della famiglia, volevamo cominciare. Per tutto il giorno abbiamo vuotato scatoloni e riempito armadi, martellato e messo in ordine, finché di sera siamo crollati sui letti con le lenzuola pulite. Non avevamo mangiato niente di caldo, ma non importava. Mamma e Margot erano troppo stanche e nervose per mangiare, papà e io troppo indaffarati. Martedì mattina abbiamo ripreso dal punto in cui avevamo smesso lunedì. Beppe e Miep sono andate a fare la spesa con le nostre tessere. Papà ha migliorato l'oscuramento delle finestre. Abbiamo lavato il pavimento della cucina e siamo stati in ballo di nuovo dalla mattina alla sera. Fino a mercoledì non ho avuto il tempo per pensare al grande cambiamento che era avvenuto nella mia vita. Allora, per la prima volta da quando siamo qui nel nostro alloggio segreto, ho potuto comunicarti come erano andate le cose e al contempo rendermi bene conto di quello che mi è successo e di quello che mi succederà. Tua Anne. Daria De Florian ha letto Il diario di Anna Frank, edizione definitiva a cura di Miriam Pressler, traduzione di Laura Pignatti, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Per scaricare e riascoltare il programma radio3.rai.it.